fratello sì. Faccio una fattona, sai, Rufo, e tu faccio una fattona, sai. No, lo sto facendo, c'è la partita sei tu. La Germania è fuori. Meglio così. Facciamo una prova di là, grazie. Se volete mi senti bene, lo fa una prova. Ma dove nel PMR? E un altro paio di passaggi là, dove? Aspetta che lo prendo, che ce l'ho qua. E che sto per uscire, tanto dai. Adesso l'ho acceso. C'è nessuno. E beh, Giorni Maria, ci sei. Tutto gonfio, sì. Attenzione la ruota di Pirandello. Entra dopo che sto facendo una commissione. Hola, canale 23. Graziano, ci sei? Ehi, aspetta che sono nel cortile che sto mettendo a posto due fiati che ha portato Paoletta. E zitto! Sono venuto a casa, insomma, sto sistemando un computer. Devo bloccare gli aggiornamenti, se no mi si blocca, torna, dai. Adesso sono qua, non so per quanto, forse 10, 15 minuti, 20 minuti. Vabbè, se ne finisco subito, già dentro su. E sto passando dallo spago per legare. Ok. Via. Beh, non c'è nessuno in questo binario. Hola! Avanti, chi è che c'è su questo binario? Abbandonato? Attento, torre squallo! Beh, tutti caduti siete, eh? Hola, hola, attento se scucci Nord Sardegna Italia, adelante, adelante. Hola, hola, attento amigos, amigos, se va escuchando in Nord Sardegna Italia, adelante, adelante. Hola muchacho, attento. Hola. Attento muchacho, se va escuchando il Nord Sardegna Italia. Adelante, adelante. Hola. Tutto scucito. Eiu. Eiu, eiu, ti scuccio, ti cuccio. Eia, tutto gonfio sì. Cos'è gonfio sì? Eiu, ma tutta Santo Paolo sono parati, così a Ginteggio, tutti a San Paolo sono scesi, il fiorista me l'ha detto, eiu, mi ha detto tutti parati di sloppo, a uno, a un fumo sono parati, cosa vuoi che ne so? No, no, io ancora non fumo. Ha ragione, zio. Mira, buon'anima, riuscita, squalo 2. Raga, squalo 2, squalo 2, zio. Catta, ma come cosa è successo a 3 in 27? A Ginteggio non vuoi fare niente, tutta gonfia. Cosa vai? Tutti scesi sono. Il fioraio me l'ha detto, qui stasera al cimitero. È passato l'agricoltore, è passato vizio, è passato vizio. Sono entrati e non sono usciti. E lui se la licidina la italiana, no che sarrate chi dà. Sono rimasti vivi. Così è no. E tu sei entrato e no che sei entrato. Cosa sei entrato a fare? A fare un giretto così, tanto va a girare. A dire che mi posso una passeggiata a vedere. Alla sorte. Se ne sei uno o due, tira per il dai. Ma tu sei così? No, c'era Luca, ma mi sembra che stava guardando un computer. Però devi addormentarci, non so dove doveva andare, forse a farsi un giretto con la sua consorte. Così è, andava. Dai. Ma non c'è più nessuno a frequenza. Chi ci sei tu? Gio Maria, che Gio Maria sente bene, così ho sentito. Ah boh, animale la gente sbannuda, boh. Non esaccio. E ieri sera c'era Bacchisio e Marino, e poi è entrato Antonello, ma tutti verso le 7:30, mi. Sul tardi, là. No, Gio Maria, ho sentito che non sente bene. Ma ne manco io, mi intendo voi, mi. Sono con la giastella, mi si tanto bambi lì. Fate le riunioni in terra, vado, per carità. Ma ti sei sempre bugiato, devi camminare un po' garido, ecco cosa è. E non rimane un bel bugiato, fai forza le riunioni te ne farani. Ma cosa, tu stavo dirigendo i lavori qua, che stavano imbiancando, in cucina, l'ingresso, in bagno. Stavo facendo il capocantiere, il dirigente, e l'ispezionamento. Sì, bugiato nella gadria, devi venire l'ispezionamento. No, sto cazzando pure la cara, da vicino lo travaglio, ok, mi bucchia, lo riflesso invece, la cara, ma io bene, bene, qui non andavo a ritornare a ripassare. La sorte, se ne sei una riga, sì. Vabbè, voglio operarie, femmine, la giudice, però... Io ve lo dico, pure di un pantalone, non va a prendere in valletta. Vai da un poco, Se travagliare femmine fai fatto, no. E allora, così che non ho pisaraggio se non fai niente alla zona. Si, ci sei brigante tu, no. E la devi imparare, mica se devo chiamare, gente, ma finì. Piano piano, piano sali qua. Dai, dai, giù. Figurate che quando la seconda, quando era più minore, che mi c'è di travagli, di frappicamuro a far pavimenti, che subita, che la regava a travagliare, io, mi fammi una caldarella di fatto, fai così, così e così, a me che me lo faccio, a me lo carrava a burro. Certo che andemmo, bubù. E poi disegnavo i tracci, mi la faccia lo scalpello, fai un buco lungo qui e qui fai un buco quadrato, glielo segnavo, a me figura, e mi lo faccia. Certo. Andiamo bene, andiamo, bubù. Ah no, no, non vuoi la parità di diritto, allora travaglia. Aspetta, tanto giù. Dai, dai, andemmo. Quindi a Gio Maria non è inteso bannuta. Sì, l'ho sentito al telefono, però non si sente bene, Gucci mi ha detto. Io lo stesso, no, io mi intendo a sempre. Mi ha preso una tachipirina poco fa. A chi non podia stare né fusato né in fisico. Con chi c'è china. Ho fatto quella visita, la mocco di nuovo. Prima va via L1, L2, L3, va vaggio L1, L2, L3, L4, L5, forse mari, stato porosi. E per quello che mi fa male la schiena, in più insufficienza renale, e ogni anno me ne beso, sai un po' che sta di bugia fa forza. Troppe pastiglie quelle sono, troppe pastiglie? Sì, ma rubiglia il pulmologo, mi ne ha rubato uno di spruzzo e mi ne ha dato tre, la gente scusa, ma non va bene perché quello che sto facendo, uno solo, due volte al giorno, né quella adesso lo sospende e fai questi, a tre, noi mi ne ha dato uno, tre mi ne ha fatto, due spruzzi di uno, due spruzzi di l'altro, due spruzzi di l'altro, a ve la fare. Al cortigione buso, così mi crepa prima. Sì, dai, dai, segnate dei dottori, non faginate che date medicini, però da buoni capi buoni c'è tu. Allora, per carità, la riserva va, cioè io con quello, quando l'ho fatto, vedo faccio che mi riprendo subito, respiro bene, non dico vabbè, però già me ne accorgo con questo qua, con il C8, C8 si chiama, 2 spruzzi al giorno, e va bene, niente, quello non lo fai più e fai qui, e va bene, e invece di 2 spruzzi faccio 2, 4, 6 spruzzi, uno diverso da là, andiamo. Ehi, perché sei il dottore, non sai di cosa che tu va? Boh, è una cosa, banda prima io. Ehi, ma io mi ripruzzo, bro, se vengo in aria che mi serve, non ho bisogno, mi ripruzzo. Se no io continuo a postarmi che ciò che faccio, a roba è. Se andate a me prima che non devo andare a me, a va. Chi non faccia in sangosa? Oh, no, a me non mi basta, è cronico, ce l'ho cronico io, capito? No, lo sanano, magari. Sì, sai cosa ti dico, piano piano sempre andando. Sì, che cosa vuoi fare? Ma tu, ma sai che a tu cazzo mi leva, posso dire di base, sono gambo capisca. Perché pensi non ne posso sollevare? Un cappone d'acqua, quanto bisogna, non sei a pulli, né manco c'è lì, tra chi la pulli, non sono manco un litro. Eppure mi fate aprire la bocca. Oggi compreso. Troppo compreso. Aspetta, ti sto contando la pastiglia e così. E poi mi si accelera subito il cuore, mi poco fa stavo passando una pianta che mi ha portato mia sorella, una pianta media, là, diciamo, quelle piante grandi con tutte le campanelle rosse. La sto prendendo dal pianerottolo per dargliela nel terrazzo, sono arrivata all'ingappura al bacco del terrazzo. Varia rugore a 3 miglia, tu, un motto picco. E più mi va, me la va a tenere, la vera. Perché c'è il coso, c'è in mezzo, e non puoi fare sforzi, né nulla, e paghi se ti tiene il piatto. Non posso fare di... non di sforzi, mi ha fatto levare un peso. Se prendo un cartone d'acqua e faccio quella del buio sui 5 metri, so con la bocca a becca e pittorra mi sento il cuore, giù, un motto picco. E poi che il fatto non è quello del cuore, che mi manca la lei non bruchi. Non andiamo a andare. Più andiamo e peggio siamo di 20 anni. Ma, sempre una cosa, vivo. Cosa vuoi dire? Se la bilancia quando è tanto, lui, per carità, tu non avevi moschini questi giorni in casa tua, sennò che va via l'invasione di mucchista, ti avevi pigliato il bocco, sì, mi dici, oggi meno male non ce n'è, era un'invasione di moschini, anche da te ce n'era, autore. No, nulla da fare, qua non sono passati, nulla da fare, no. Qua no, non è passata. Boh, 3 dì, sì così, ammazzano i moschini, con chi si ammazza la voce, sì, ha giubilato guidato la medicina che fa i barizecchi e tutti gli altri marazzucci di animali che sono disegnati. Ci ha giubilato il vicino alla Arianna, è un guzzolo vicino alla guida della volgibile e la ringhiera vanno entrambi da fuga. Boh, ha cominciato a bruciare con siluri barilani, ma ora tanto mi entrava. Meno male oggi no, stamattina ne ho visto due e l'ho giù. Stasera uno l'ha giù visto. Boh, ha detto che ci stanno dagli azzurati per le avanti sui 3 metri in suo gas. Perché mi ricordo quando c'erano gli alberi, vedevo queste nuvole di moscerini vicino all'albero. E l'albero ti riparava dai moscerini, si attaccava all'albero e no, e in casa non te ne entrava. Ah, ma invece te ne entrata dentro casa. Sì, ma però era un giorno da me a tutto l'ultimo piano, perché io li vedevo alla fine dell'albero in punta qua, era filo di finestra, no? L'albero finiva lì come al tempo. E sopra lì vedevo le palle di moscerini, però facciamo la zanzariera e sarravano a forza, non ci sono mai entrati. Staccavano innanzi all'albero. Che cane me ne sono entrato dritta, chi non quell'albero? Se non c'è l'albero, prima ce la fanno l'albero per attaccarci loro. Ah, non c'è l'albero e ti entra la drenta di me. Ehi, vabbè, carico su poco, sì, chi già, qua, con chi fa ma fa che lavora di muscolo, 3 miglia, minimo. Minuti. Sì, cara per il Natale Brasso, tu ogni volta ti fa avere le stelle. Va bene, ciao, buonasera a tutti. Ciao Gianni, moscerini, piccolini, ma va via nella dentiera questi moscerini, ogni volta di che riuri se ne dirà. E venne in strada a cacciare i moschini, per carità. E tu sai cosa fare? Torna di casa dei buoni, chi saluti, chi la tira, chi gli dà delle cose, l'ammazza. Guarda che non entra dentro un gas. Mica ce l'ho, mi l'ho appeso proprio all'entrata, se entra in cucina. Avessi buoniani arrivi, mamma cosa avvicinava, ed è l'usante di capo in affatto. Non ce n'è andata una che una, a pigri. Ed è grande, mi questo cosa che ho io. Sembra un semaforo, sembra. E lo sa che c'è la luce blu e tutto il fido. Che se si appoggia va in tenitri, con le mosche funziona, con i moscerini, ma cosa avvicinano? Ma l'hanno che è intelligente. E allora, la mocca sì. Quest'anno ancora non ne ho visto, ne ho morto una stamattina, ma era nella veranda, nella certa vita. Però la divulga che vulgare, i dimmi. Allora la divulga, mi sono capitato che la sopra i denni nascono. E va, adesso è una mocca, infatti vedo una mocca. Si è accalata la stanzaniera e la divulga, chi dà le dimmi. Dove l'ammazza? Ma c'ha più luce in terra, l'ammazza brutta. La più mucca, la più tutto un colpo. Invece le mosche già ci fanno, però chi sono grandi della più mucca lì. Però ricchi moscerini, non ci andavano. Falle a ruccio tutti quanti, grazie a. Ma appena mi nira già avete un frigorifero, avevo comprato un panetto di gongorzola piccante. La bici, un mezzo lì la sera andò a pigliarlo ed era passato la plastica sua, chiuso va. Andò a aprirlo per pulirmi un po' con i rubani. E le dici di 17 moscerini, dai vai la fase giusta, ma ti capo si sono entrambe. Lo frigorifero c'è entrato. Sì, c'è entrato, lo frigorifero, da sera andato a una bici a pigliare l'eva o qualche bibita. Ma così si ne sono avvisati. E se ci sono andati proprio in questo paletto della concorsola, ce l'ho dovuto buttare. Ah, anche i moscardini, c'era un pegamino con dei moscardini che avevo fatto il giorno prima. Nonostante c'era il coperchio, quando l'ho aperto, la giabetta era pieno di moscardini, molti dentro, lampade bruni, così. Va se ne danno, va, neanche se c'è più moscardini non mangi più nulla. Oh, sì, la giambizza, la giambizza, la giambizza, la ma l'ha fatto in bagno. Quando ce l'ho buttato, guardato dal water, mio vedi anche 50 moscerini, non ti romano. Adesso qualche cosa che si è aperta, nella portata ci ho messo quelle bustine del freezer, ho messo tutto lì dentro, altro se ne entrava neanche ora, e me ne entrava lo frigorifero. Se no non è male la mocca, ha già pigliato l'ubisa della salita, l'hanno già nettato tutto quanto, l'ho messo su, sul coso, sul lavandino per cucinarlo, sul, sulla, come si chiama, sul lavreto. Beh, andò a pigliarlo, grazie. Deve essere seccato da qualche mocca, era pieno di vemo. Oh, ero se ne lampato veloce, no, a me mi è successo in campagna, proprio con un bisa a Rumi, e fuori alla veranda. Mi è appena arrivato manco 10 minuti, ma muovere un fuoco, abbassare un galbone. Mi è si vengono 3-4 simucone, la base per l'aiano fermo, te è lampato di tutto, ma oggi ne manni il bicio. E non va di un'altra, ma è lampato di tutto, e ci ho buttato. Ma anche io ce l'ho buttato, non ho mangiato, ne avevo preso due e praticamente in uno c'era, c'erano i vermi piccoli piccoli, piccoli bianchi. Beh, allora sai, sotto il lavandino c'era la scatola del Dixan, del detersivo in polvere, il coso, il puzzino in polvere. Ma di che maletta, dammi su puzzino, che pongo la battrice, vedo dopo la brudato. Beh, abbiamo cerini dentro, dove mi, chi detersivo, la dispiglia, dammi una buca, te va la fase giusta. Di già detto lo gol, ma cosa gol, non va che è pieno di uvi, di chi si ma, di auro di moccerini. No, ma se una busta ce l'ho fatto buttare. Ho detto, quando mai ci hanno fatto un nido in mezzo al detersivo in polvere. E infatti oggi non ne prego, magari quei due che ho visto stamattina era qualche l'uno di ieri. Da 16 anni dai vivi puro, hai capito? Ma lì in campagna, grazie, o a casa? In casa, non in campagna, in casa. E in 40 anni che sto qui, non che mai è capitata una cosa del genere. Ma mai, mi ha detto, boh, ma cosa vero, miele, vero? E ogni anno luci, luci, reggi, no, che si sta bianchinato, tutto quanto. Ma venuta, devo luci, sì, ce l'hai il risotto sopra. No, la cattinuta di brutto, boh. Per me perché ne hanno tagliato gli alberi, sono venuti, non hanno avuto l'albero e ne sono entrati noi. Grazie, qualcosa che li attirava, c'era cioè qualcosa di dolce, qualche cosa così. Io l'altro giorno sono andato a portare il cane, lo stesso, c'erano dei nuvoloni di moscerini, infatti gli taglia io che si dà del manoghi, fa carenda, cazzo, tutto pieno a nuvole era. Oh, non c'era nulla, nulla di nulla. Io andavano verso la colonna a frigo, oh, che frigorifero non ce n'è lì, ho fatto le piani, io lì ci metto l'acqua e i pacchi di pasta chiusi, a dispensa l'ho fatto, il frigorifero ce l'ho separato, a chi candela e chi mi dentro in ischiù, sul riscaldato mi bruciava sempre la resistenza del frigo, fissa i davvero bruciavano il frigorifero. Allora ce l'ho buttato con la cassa e me l'ho preso grande, frigo sotto e frigo sopra, e ce l'ho nel riposiglio. E quando lo usa a dispensa, giù c'è la filapolvere, il coso del cane, il magna, e sopra ci metto le bottiglie e pacchi della pasta chiusa. Ma tutti lì andavano, eppure l'ho fatto, se ne è andato, se non venite pulite, che cazzo vero, mi viveno. Boh, lì andavano tutti verso la colonna. Come la storia dell'anno scorso, qua al terzo piano salivano le formiche, poi a pieno di formiche il terrazzo, e allora ci ho fatta l'antica, mi ha detto tu fai una cosa, poi un poco di varicchina con leva, dentro metto uno spruzzino, e li ho spruzzi sopra, vedrai che non ce ne saranno più, così ho fatto, sparite, non ce n'erano più. No, quale ce li avevo prima, nell'angolo della porta finestra, poi gli ho sbuttato il DCT, c'era un forellino, lo tappa se non è più visto. Nel terrazzo invece ce n'erano un bel. Aspetta che c'è Tore, cazzo, c'è il parcheggio, l'hanno lavato, Tore! Oh, vai vai, ciao Gianni, vai vai, sono al telefono. E tu Tore, bestioline, non ne hai? Sulla, tutto asciutto a me. Mezzo gai. Quando non so pure Gadarani, oh grazie, io sono andato in certi palazzi a consegnare roba di Gadarani, bisogna, tutta la medicina in terra, bianca, e tutto il tappeto di Gadarani dentro un terrazzo, nel portone. anni, forse anche di più, c'avevo la stessa panca antica che la valla della nonna di mia moglie. E dentro c'aveva il doppio fondo c'aveva questa cassa fatta, però io non avevo mai visto, ma con i sabbi era il doppio fondo. Ora è là, cazzo, ti vedevo che cazzo, ci ogni tanto mi cazzavo qualche cazzarana, e no, che mi sta con la medicina, a paio di giorni non ne vedevo, la notte, voglio tenere il treno da pura. Allora nel portoncino blindato c'è la sua sbarra, gliel'ho regalata e abbassata fino a terra. Strano, da un capo nei due treni, apri questa cassa a pacca, la invio, e so che il più li trovavo lì vicino. E la ammazzavo la giabatta, la nutti, che almeno mi sa andare in basso. Apri su, volta, chi su, sotto vuoto, di là. La disarrata giù, bisogna che si apri, mi ruacone, mi la sua cassa a pacca, se la giù cuccia, da un darrazzino, tra l'altro lì. Quando arrivi da terra, è esplosa, minimo venire lì, 3 miglia. Allucinogeno, ma la cassapacca l'hai rovinata così, magari di valore, e dovevi buttare dentro un po' di diritti che se li ammazzati tutti i cazzi, certo, dai tu irani. Ma tu sei matto, sei nato in bigliato un infranto, ma si è ammazzato il giubito, sei nato in un tappetto niente, tutti i gamminelli, sai cosa cazzo c'è? Apri più, va fuori. Di fuggire il cazzo me la fuggi della cazzo a faccia, cazzo non so quanti ce ne erano dentro. Allucinante, boh. No, io qua grazie a Dio non ne ho mai trovato, non ce n'è, però le formiche sono salite sino al terzo piano, immaginati. Adesso c'è quello dell'agenzia funebre, che ci hanno messo l'agenzia funebre a fianco al portone, no? E quello lì con la fiamma, quella chiusa per chiudere le bare, le brucia. Col cannello, anche io nel terrazzo col cannello, quello piccolo così, quando brinco io, che ripeto, mi dice cannello e le brucio. Tu non devi vedere quella cosa, tu che cazzo fa, mi la tutti a me la cazzo fa, sei a lui. E ma quale se la giù la fatta subito, figurati se si facevano in tutto l'appartamento, gli altri cavavi in biglia. Oh, no. E le formiche del terrazzo c'erano a poco, però Paoletta li spostato per il DCT, casini un poco e non li vedi. Poi quando cominciano le belle giornate, anche tu non gliela vedi, ma già è attrezzata, li spostato per il DCT e già non li vedi. Non ce n'era oggi formiche, ah? Oggi non ce n'era. Ehi, a me mi fanno schifo quelle gazzara. Cucci! Avanti! Fabrizio. Ciao Gianni, buonasera, guarda che non sto scendo bene. Anche per quello, volevo regolarlo un attimino, che l'ho riparato l'altro giorno e volevo fare una regolazione. Tutto male, stavo dicendo Fabri, ciao, buonasera. Deve regolare un attimino, prova Fabri. Adesso ho abbassato il Mickey Gain, dimmi come va. Adesso va meglio Fabrizio. Allora dimmi un po', devo sollevare o devo abbassare? No, prova a abbassare ancora, a vedere se la chiarifica. Ecco, adesso ho abbassato un altro pochettino, guarda come ti sembra. No, troppo bassa adesso Fabri, alza ancora. Adesso ho sollevato un pochettino, come ti sembra? Adesso va bene, dai, adesso mi sembra ok, vero? Oh, grazie. Ehi, ciao Fabrizio, così già sta facendo bene. Riprendi tu che mi ha sentito 2 minuti. Gianni. Cosa stai aggiustando? Io te l'appoggio. Aggiustando in questi giorni che mi sono tratti un po' di 440 metri a posto, io ne ho messo ne ho due come nuovi, solo che avevo questa, l'avevo messa a posto tempo fa, adesso lì poi non lo uso e ho riparato un 440 che ho dato al proprietario, lo stavamo provando e è iniziato a darmi problemi il mio, e quindi l'ho messo sotto i ferri ed era una bombinetta, ma prima di trovarla ci ho messo, quindi l'ho messo a posto e non avevo ancora regolato il Mickey Gain e volevo vedere anche per questo scappa giù al mare, lo porto come HF, me lo porto al mare, e qua ci metto l'altro, che ne è un altro 440, lo stesso nuovo, tutto rifatto, e lo terrò in stazione. Sì, allora adesso già sta andando bene, è bella presente la radio, forte, la stai usando il 1060? No, il Turner, il Super Sideric, quello nero. Ah, è bello con il microfono. Avevo sentito una volta a volte via Buni che con quel microfono e col il DAC. E pensavo che fosse con l'apparecchio valvolare, e invece mi ha detto no, solo col DAC e col Super Sideric, che aveva una voce così calda che sembrava un valvolare di quelli antichi. Buonasera, Buonasera Pomponio. Sto sentando un attimino, saluto a tutti, ci sentiamo dopo, ci sentiamo. Ehi Atto, qua siamo, dai. Avanti, se ci sei Graziano. Graziano non risponde. Ogni tanto facciamo un po' di bianco, a ver se vuole entrare qualcuno. C'era Alessio pure, avanti Pomponio. Buonasera, buonasera, mi è castigato, ho chiamato tre volte. Sì, veloce come la luce, sì, la verità. Vabbè, comunque sia, buonasera a tutti. Ben ascoltati, non c'è problema. E tu lo sai che sono veloce. Devi velocizzarti pure tu. Quanto stavo dicendo, no, io ho detto solo che stava provando, stavo facendo male perché stava provando a regolare il microfono, quello lì ho detto basta, non ho letto altro. Sì, ciao Pomponio, ben sentito. No, era lì fermo questa radio e questo è una radio praticamente che era, guarda, era quello di con quel ragazzo, di quello un ragazzo più grande di me, di Sorso, che aveva problemi al che ogni tanto si sgantava il PLC, diventava puntini su alcune frequenze. Il problema di queste radio è che bisogna rifare tutti i VCO, devi ricostruire. E comunque, infatti quando si prende un 440 bisogna stare attenti perché sono stati rifatti, perché se non sono stati fatti prima o poi sono da fare ed è un lavoraccio che vale metà della radio, perché ti chiedono 200 euro per farle, ma non per il 3, perché ci vuole un bel lavoro. E poi l'avevo presa, lui non se n'era nemmeno accorto, era sorda perché aveva allo smitter era buono, il classico gioco gli era un tratto sullo smitter, ma lui e lei era sorda lo stesso, aveva un problema su andava in ferita su un diodo che era sulla parte dove c'era lo scambio di banda e lì c'era un diodo in perdita e quindi abbatteva il segnale. E poi l'ho messo a posto, toccati nella cordatore che aveva due problemini, e niente, poi andava bene, l'ho riallineata, sto facendo, l'altro giorno ho avuto questo problemino, praticamente c'è una tensione di riferimento che non me la dava, quindi piano piano fai tutti i puntini, proprio morta completamente, ed era una bobinetta, quella forma di resistenza, no? che era andata in dispersione, immaginate un po', trovarla, il santo di un Cristo, cioè, ho avuto comunque le a posto, perché vanno bene. Poi avevo quell'altra che avevo preso io, che addirittura avevo trovato il frontalino ancora in scatola, a fondo di magazzino, quindi nuova, poi gli avevo fatto i coperchi di tutti e due, gli avevo riverniciato tutti i coperchi, ma non così, proprio con roba bicomponente, cioè se non te ne accorgi quasi nemmeno che sono stati riverniciati, quindi diciamo che tutte e due sembrano nuove di pacca, poi revisionate, vanno bene, dai. Infatti come ti dicevo, già questa me la porto giù al mare, e l'altra me la metto in stazione. Grazie Fabri, c'è un americano che ti sta coprendo completamente, allucinante. Tratto. Ehi Graziano, avanti, racconta. Ehi, è un bel porto, lo sta a fare di brutto, Ho cercato Fabrizio, ho sceso il segnale. Di colpo così, dopodiché come se avessi avuto qualche problema tipo di massa in antenna, cosa del genere, più che altro. Adesso è a posto. Ciao Pomponio! Buonasera dottore, come stai? Tutto a posto? Sì, io ho sistemato questo aggeggio, adesso funziona bene, l'unico problema cazzo che non ho fatto il mio il Cunes 4000, che non riesco a cavare i piedi, non capisco cosa diavolo abbia, la verità. Questo sono riuscito a farlo. come zappatore, diceva quello, come il borsaiolo, quello che fa le scarpe, non lo so. A volte le cose sue non si mette, non metto impegno e le lascio perdere da una parte all'altra. Adesso voi ho visto, questo qua, il Saturno, ecco, funziona benissimo. È una bomba adesso. Il trimmer, 15 centesimi, ho speso e a posto. Invece quel presidente Gesso che c'ho io c'ha sempre quel difetto, lo attacchi dopo di un po' va in saturazione. Quando va in saturazione così c'è in perdita il finale, il discorso è quello, c'è poco da sbagliare. E beh, il finale perché è molto costato, costerà una cazzata. Sì, sì, 19.69, vai coccati, già più domani così, lascia perdere che è meglio, lascia, l'avevi regalato un presidente, già lo sai anche tu io, per come ti vuoi, perché ne avevo le balle piene della questione dei finali. Un attimino, mi assento. Ehi, ok, costava molto Antonio, perché? Sì, intorno ai 30-40 euro costa una finale di 19.69, quindi figurati tu. Vabbè, noi ne manco 100 euro, 30 euro si buoni, quindi è roba come radio. Sì, ma dove l'ho detto quanto ha venduto che era in quelle condizioni, scusa, dipendeva anche da lui. Insomma, avresti neanche preso addirittura, quindi figurati tu. Si è capitato a me, quindi io ho dato il presidente Gesso, anzi l'ho regalato più che altro, l'ho regalato a uno dei signori, l'ho regalato, ho detto prendi con l'apparecchio perché ne ho le balle piene, ho detto, perché ho detto il finale, ho detto che mi ha detto fusasso tutti quanti, uno peggio dell'altro, a un certo punto ho detto non devo che stare a cambiare i componenti, eccetera eccetera, ho preso e gliel'ho regalato, ho detto vai arrangiati, portalo fuori da un tecnico, arrangiati, basta non c'è che a me perché non mi ha giocato, ho detto mi metto a posto, tutto lì, anche se mi dispiaceva la verità, perché il presidente Jackson è presidente Jackson, la verità, monta due finali, anzi ne monta tre finali, quindi a un certo punto sono intorno ai 30 watt, però mi aveva rotto le balle più che altro, capito? Poi ha pesato un pezzo a uno, cioè una cosa a una persona che era manco mia, poi non me l'ha più tornato, che spariscono la circolazione, non sai come fanno a volte i CTCB, no? Dire la roba, spariscono e se la vende. E quindi gli ho detto, presidente Jackson, ho detto, allora ti fa quello che vuoi, Tommy, e si è a posto. Tanto baracchini che ne avevo, grazie a Dio, non è che mi mancava. Ma è un peccato buttarcelo, se lo vedi non va un grafio, già te l'avevo portato, se ti ricordi che gli avevi registrato la potenza, invece non era la lì. Aspetta che momento, aspetta, un attimo. Fabrizio, sta scendendo basso, mi sta scendendo di potenza. Si è abbassata la potenza nuovamente, devo ricontrollare, quando inizio questi apparecchi non esci più. Fabrizio, non si sente più, Fabrizio sì. E a volte capita, sono difetti di Bertolami, basta un finale e magari rompe le balle e quindi si esce di potenza. Eccolo qua. Regoliamo. Eccolo qua. Ma perché, che grazie, che di... Aspetta un attimino, aspetta. Come arriva al massimo, tutto un tratto, piglia, scende giù di potenza, vabbè. Ero lo vedo. Non sta salendo, deve esserci qualcosa, se lo controllo. Ci sentiamo dopo. Non ti sento più. Lo vedo, ogni tanto cala. Ho capito perché. Perché ho contato qualche tensione. Ma sei sicuro che quello è il problema, Grazia? Non dà basso questa radio, vuoi saturazione? Allora io l'ho messo, lo accendo, certe volte sta anche mezz'oretta, qualche volte è durata anche un'oretta che lo adopero parlando, addirittura certe volte non me l'ho fatto, però molte volte lo accendi, fai un paio di passaggi e poi se ne va in saturazione. Mi Antonello già l'aveva guardato lui, mi aveva detto che c'era la potenza aumentata e allora gliel'ha regolata e funzionava bene. Arriva a casa, lo accendo, ha funzionato un quarto d'ora e andava lo stesso in saturazione. Ti ricordi Antonio? Oh, boom. E c'è sceso anche lui. Sparito. Non lo so da cosa dipende, è un peccato perché è nuovo. Gli aveva abbinato anche il microfono, me l'ha venduto Gianni, nuovo, senza usare, il DM1000, ancora dentro la scatola sigillato. E pensando che fosse dal microfono originale suo, e invece non era né dal microfono né dall'alimentatore, perché gli ho preso anche l'alimentatore da 50 ampere di uscita, a vedere se era quella la scusa, perché l'altro era da 30, e invece neanche con quello da 50 né manco con un microfono. È proprio la radio che fa così, fatturazione. Sì, però lo voglio nuovamente, dai, apro. Sei sparito, Fabri. Sono sparito, Fabrizio. Hola, tienes amigos, se va escuchando el nord Sardinia, Italia. Adelante, adelante. Hola, muchachos, se va escuchando el nord Sardinia, Italia. Adelante, adelante. Hola. Hola, hermano, hermano, se escucha el nord Sardinia, Italia. Adelante, adelante. Attenta amico, se escuchi Italia, cambio basso. Come ascolti a me? Basso o alto di modulazione? Così già ti sento, prova Antone. 1, 2, 3, 4 in AM, sto parlando anche in FM, per dire, vabbè, in AM va bene lo stesso. Come sto scendendo questo Saturneco, bene va bene, o no? Poi è cambiata la questione. Ah, io ti sento bene. Oh, ti dicevo, aspetta. Ogni tanto lo fa, cala di potenza. Fabri, sei mancato. Cala di potenza ogni tanto. Deve essere qualche fesseria, sì, che gli diamo qui controllato, mica non voglia più. Stavo dicendo, ma come mai questo difetto? Però è strano, perché se va in saturazione il finale ed esce di potenza. Sei sparito, Fabri! Come ogni tanto se ne cala. Mi sembra strano però come difetto, che siano i finali se va in saturazione. Antonella ha detto così, cosa ne so. Antonella. A volte glielo fa Fabri, a volte parla per dire sta che uno o due giorni che parla tranquillo, dopodiché tutto un tratto fila, prende e va tipo saturazione, hai capito? È come se avessi qualche cosa strana in perdita, non lo so. Ma siamo allo stadio finale però, perché lo stadio finale non dava il problema. Se quello esce di watt, punto, i watt li saranno. Se va in saturazione, un problema di modulazione, magari c'è qualche condensatorino, qualcosa, bisogna misurare un pochettino l'intorno, però è un problema di modulazione, no? Se i watt, cioè, i finali o vanno o non vanno, non è che vanno un po' o non vanno un po'. E poi quando va in saturazione, non è i finali, i finali erogano la potenza di quello che gli entra dentro. E il microfono è nuovo, l'alimentatore è nuovo, da 50, il microfono è DM1000, nuovo nuovo, è una bomba, ma funziona poi da voi, mi dicono che sta, che non mi capiscono perché va in saturazione. È la parte di modulazione, però, vedi com'è questo. Aspetta. Anche da provare più che altro. Invece io, Fabri, c'è un bel difetto. Quando io parlo con le 4000, per dire, prende e cominciano a scaldare le bobine prima dell'uscita. E i finali scalano, i finali sono i tabi nuovi, li ho cambiati tutti e due, non sono i finali in corto, quindi c'è qualche altra cosa, non si capire quale del cazzo sia, non sono riuscito a cavare i piedi. Bisogna vedere schema in mano e vedere, misurare le tensioni, l'intorno, se i finali scaldano c'è qualche cosa che non va all'intorno, bisogna vedere il prefinale, devi controllare tutte le tensioni intorno, così qualcosa ci sarà sicuramente. Guarda questo adesso, è perfetto, ogni tanto in AM gli manca la potenza, comunque vedi, questi sono i difetti che fanno uscire di testa, finché non ti dà niente, così come cavolo fai a controllarlo, e ogni tanto dici ma sarà quello, sarà quell'altro. Magari qualche faccio contatto, qualcosa nel circuito stampato senz'altro, quindi fai le salvature e te la cogli subito, qual è il problema? Dalla parte dei finali. Questi HF c'entra poco quella parte, basta solo il segnale come faccia anche nella scheda IF, che basta poco, tante cose può dipendere, quello è il problema. No, sta andando, vai giù e capisci qualcosa, comunque sembrerebbe a posto, no, che non lo faccio, può essere che magari adesso accordato e niente, però strano quel difetto che gli riprendi? Io o lui, se fosse lui, avanti. Ehi, dimmi, no, mi ha chiamato mia moglie, non vi ho sentito. Antone. Forse Gesù, sì. È sparito adesso. Aspetta che riprendo dopo, che voglio controllare una cosa. Ehi, d'accordo. Ehi, ok, e beh, Antone. Il coso, il miscelatore, l'acqua calda con fredda, quindi sono andato a Santa Maria, il prezzo interno 60 euro, hai capito? Invece il prezzo completo ne costa da cosa? Da bricco è 14, 20 euro, quello che però stanno a chiamare emulatore, cosa del genere, ho dovuto pagare il prezzo 60 euro. È un prezzo. La resistenza si è bruciata, è di cosa? No, c'è presente il miscelatore delle cose, della doccia. Ci sono quelle condizioni, si sono fuse tutte quante, capito? Quindi a un certo punto devi smontarlo, poi ti rimane il pezzo intero, ho fatto che staccarlo, però per poter trovare una cosa del genere devi comprare ciò che c'è, non è che ti fai la bricomè, bricomè non ne ha di quei pezzi così. Ah, il miscelatore della luce, anche io da poco l'ho cambiato, ok? Quelli dopo di un po' si libera un po'. sensazione che mi è costata a me, non hai capito nulla. Senza prendere l'emulatore è stato bello idraulico, solo il pezzo delle, che c'è all'interno, 60 euro con le guarnizioni. Aspetta un attimo che mi hai vuole mia figlia. Sì. Quello è un ladro, ti avevo chiesto qua, una chiave per la macchina, per mia sorella. 74 euro via. La ditta veste la macchina. Fa tre chiavi, se è vero, se l'ho visto. Vabbè, 450 euro a farmi la chiave di Caracippi, mia sorella, l'ha persa, no? E mi ha detto, se la vuoi normale ti costa 50 euro, senza il telecomando incorporato, perché quella che ha perso c'è il telecomando incorporato, per aprire e chiudere. Se la vuoi così mi costa 150 euro, mamma sui capi, la capisci, l'ho fatta lì, in via Napoli e ho pagato 30 euro. Lo so, appunto cosa devi fare appunto per quello, cosa facciamo a un certo punto io, staccavo tutto dal muro, un'altra di casa lo devo fare, chiamare il volatore, togliere tutto quello e dopodiché per 30 euro, non mi sarebbe convenuto per niente, a un certo punto me l'ho fatto io, vaffanculo, ho speso 60 euro e ho risparmiato anche, non so l'altro. Non so fatto io, non è che abbia fatto l'idraulico. E se avessi chiamato l'idraulico guai. L'idraulico in genere prende 20 ore, 20 euro all'ora. E l'ho fatto neanche 5 minuti io, lo sai. E chiama l'angelo, grazie a Dio, per quello, ma. Vabbè, ce la prendi al culo Antonio, intanto che gli andano e torno. Tutti i cigni. E appunto per quello capiterà che magari ha bisogno di fare qualche pianta in casa sua, magari lui. E per la parabola poi rispondo io, dico mi dai 60 euro a me. E come 60 euro? 60 euro voglio, se no non ci sa cosa fare io. Paga lì, dico, a un certo punto, e gli installo il coso, la parabola, gli faccio buttamento la parabola. Fai bene, cucimpa, ti chiama, fai i travagli, cucimmi la via rifatti. Appunto per quello, avanti l'altro, chi è voi che voleva entrare avanti? Fabrizio. Tore, mica è rientrato tu. Tore, sì, è sparito. Perché adesso è il periodo di Rusarretto. Allora gli ha dato, come si vede un colore di zarretto in pari. Per quello. Allora, apri la bocca, sta sempre mangiando, c'è lo squallo. Meglio così. Vabbè, non entra, chissà se si può essere mangiando. Ah, boh. Però mi piace più l'altro, se devo ir a calare, non che mi basta che si salvezza, quando si fucca a cattare un calare mi basta mezz'ora. Capito mia? Capito Dio, ma non c'è problema. Dico, quello con i pomelli, invece di questo digitale oggi, mi trovo meglio, mi fa girare il canale. E questo è con i pomelli? No, questo qui è digitale a numeri, devi stare mezz'ora di legno e fa pulire il canale. Ah, questo c'ha i canali e anche il frequenzimetro, lo sai. Sto pagando 150 euro la palazzo, forse la... Come mi senti a me? Mi senti bene penso, no? Anche se me l'ho preso per il culo, perché dice che non c'è, che non funzionava per niente, che era quello, che era quell'altro, l'ho sistemato io. Beh, secondo te come sta uscendo? Bene o male? Ma io si sento bene, adesso io ne ho levato, avevo messo l'eco, adesso non c'è più, meglio mi sento. Guarda, adesso io metto l'eco e giro di su, che non ho mai toccato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, mi senti, bene o male? Bene, bene, quella che radio è quella. Questo è stato un eco che va a 220 volts. L'ho pagato 150 euro. Ah, quello che mi avevi detto, no, sta dicendo bene. Già sta andando bene. vi ha pagato, mi pare, sulle 2,50, mi sembra, non mi ricordo. Questo è cosa già politica, 7.009, però l'altro è preferito più con i famigli. Vabbè, questa non lo conosce tanto, cosa vuol dire che io c'ho anche cosa, l'altro, io sai il... L'887. E c'è stato un canale, non c'è frequenziva, però c'è il canale, quindi va benissimo, esce perfetto, non c'è nessun problema. Anche questo già funziona bene tutto, va tutto, però come trovarmi per dire, per spostare il canale? Ah va, se voglio andare a una sua frequenza mi ubbigliare la bella che normalmente le frequenze, capite? Devo abbandonare la tabella, gli dà da bese, cacco, frigo. Quello là, al 10 deve andare, giro e andare 10 subito, per dire no. In pratica, non è come Saturno, ecco da, che tu vai su 23 per dire. E di più, ti sei al canale 23 più la frequenza che c'hai a fianco. In pratica tutto lì è tutto, vabbè, è facile da usare, mio, se tu che vi faccio un po' la, come te posso dire, il coso, la mano. Ma l'altra volta stavo provando, avevo troppo tempo a passare da un canale all'altro, capito? Quello che mi dà fastidio. Cosa vuoi dire? Io la verità mi trovo bene col mio, con Saturnecco, perché sono su 23, in pratica sono 255 come frequenza. Hai capito? Poi scendo più giù, per dire, su canale 5 sono 27.015. Tutto lì, non è che ci sia, vabbè, te lo segna, ti segna il canale e ti segna anche la frequenza, a fianco. Lo so, però io nominalmente le frequenze devo sempre pigliare la tabella, compresa, paesà, gira, e ci metto di più, capito, a passare da un canale all'altro. Sì, vabbè, all'anima, cazzo. Frequenza A, B, C, D, e cosa del genere, caso non è che ci voglia molto fare questa roba qua, devi allenare, hai capito? Più che altro, non è che sia difficile, no? No, la frequenza già è sempre sulla D, però se io voglio andare sul D, ci devo io ruotare la manovella, più sino che c'è un pulsante, girare più veloce i numeri, se non posso così, se non compasso da pochi molli deve giurare chi c'ha compri, o se non vado a andare con la rotellina, è un scassamento, magari che è pratico, lo faccio più veloce. Vabbè, io ti faccio vedere come funziona io, là. Quando ci voglio venire a casa, 5 minuti, sali qua e ti faccio vedere come funziona. Così almeno impari un pochettino e sei più veloce. Qualche giorno mi avvicino, me lo porto e me lo fai vedere per fare più veloce. Se no comunque ti esce di capo qui. Ok, vediamo un po'. Sì, pure quello. Fabrizio. Adesso, ma su che canale siamo? 23, sì? No, sì, 23, 23. Io c'ho un baracchino, la paglietta, l'LMS200 che mi indica 25, non riesco a capire perché. Vuol dire che me lo trovo quello. No, qui ce li ho segnate giuste, canale 23, non riesco a capire perché mi dà il canale 25, mi dà sull'LMS200, la paglietta, non so se ce l'hai presente. Vabbè, il solito 22 forse dovrebbe essere 24, non 25 comunque sia. Quindi a un certo punto, dall'1 al 23 erano tutti tranquilli. Dopodiché il 22 infatti corrispondeva al 25. Infatti il 23, questo mi corrisponde il 25, e va bene così, perché poi iniziano a saltare, non ho mai capito il perché. Ciao. Sono cose strane, dico tipo di apparati, sai anche tu. Ecco qua, va bene. Ascolta, grazie, mi stavi dicendo che apparecchio c'hai tu che va in saturazione? Il presidente Gesso! Nuovo nuovo! Però fa così spesso! Oh Pupo, ma il radio va in saturazione, ma i watt rimangono costanti? Sì. Quindi va in radio va in saturazione. Ma com'è che sollevi il Mickey Game? Quando va bene e tu sollevi tutto il Mickey Game, fa lo stesso difetto? Sì, cioè io lo attacco il punto adesso perché ce l'ho messo nel ripostiglio, però te lo faccio voi sentire. E quando lo attacco parli un po' e poi mi dicono che non mi capiscono perché fa, andando aumentando la saturazione. No, ma quello che voglio dire, tu hai provato quando stai modulando che la radio va bene, sollevi il Mickey Gain, che cosa succede? Vai in saturazione nella stessa maniera? Ho provato a abbassare tutto, ho provato a sollevare tutto, saturazione rimane. E l'ho provato anche che mi ascolta Antonello, mi lo diceva lui, abbassa, alza. L'ho fatto regolazioni, controregolazioni, tutto provato, saturazione sempre rimane. Ho messo l'alimentatore più forte perché prima mi dicevano magari è bassa l'alimentazione e avanza il biglio da 50. Poi manetti il microfono, avanza e pongo il microfono nuovo, la stessa cosa. E dico cosa sta succedendo? Boh, no, ma io non credo che siano i finali, comunque. Boh, non lo so, Antonello il giorno l'ho portato su, ha guardato e c'era la potenza aumentata. La gente è una radio Ducati, a me mi danno i dati bussi, infatti ho chiesto a quello che me l'ha dato e mi ha detto che è una via Ducati usa. E allora come ti va questa potenza? La giura si è alzata. Io non l'ho mai aperto, quindi vabbè, la capisci cosa che devi dire? Perché la potenza, se tu abbassi la potenza, saturazione, bisognerebbe controllarlo, non lo so, comunque non credo i finali, io non gli avrei speso soldi per i finali, non credo proprio che siano i finali, così. Perché se va bene o è qualche corrente che aumenta lì la corrente di Biase, bisogna vedere, però non credo, guarda, bisogna controllarlo, però magari si ritesta controllando, però bisogna vedere. Adesso mi scarico il manual service, gli do un'occhiata. Dai. Boh, non lo so, se vuoi te lo do e lo controlli tu a vedere, perché mi dispiace lasciarlo fermo, è nuovo nuovo. E vediamo, dai, adesso dopodomani me ne scendo al mare, quindi non sono a casa. Adesso però mi scarico il manual service e do un'occhiata per curiosare, va, se è semplice. Va bene, lo guardi tu a vedere cosa risolvo. Riprendi Pompo. Adesso sto scendo bene, sì, va, riprendi. Adesso va bene, sei a posto, non c'è problema. Beh ragazzi, io chiudo là, che mi devo fare l'insulina. Ciao Antonello, ciao Torre se sei in ascolto, Gianni se sei in ascolto, insomma salutone anche quelli che sono in ascolto, va? Ok, ciao Fabrizio, ciao Antonello e ciao a tutti. Al limite lo accendo domani sera, va? E domani mattina accendo la radiolina, va? Ok, ciao Antonello, riprende, aspetta il finalino. Ciao, ci sentiamo, non c'è problema, già accendo uno e l'altro, anche più o meno, perché sono apparecchi che non accendo, la verità, quindi basta chiamare, non c'è problema. Ehi, faccio qua in cucina sul campo. Se chiami già ti rispondo. Ok, ciao. Ciao, dopo. Ciao, ciao. Vabbè. Niente, qua, adesso proprio inizio il telegiornale e me lo voglio guardare. Ho detto, ho acceso, ogni tanto queste radio vecchie le accendi, cari, però, cioè, quanto le metti a posto, ogni tanto me ne entra qualcuno, me lo porta, poi alla fine c'è sempre qualche cosa che succede, anche se sono a posto, ogni tanto, è un radio di 30-40 anni ormai, quindi ogni tanto qualcosa gli succede, un falso contatto, una cagattina, una regia incondensata. Il problema non è il ricambio in linea di massima, non costa niente, è trovare il difetto che ti fa uscire di testa, è solo quello. Alle volte, quindi per trovarlo, a volte ci perdi giornate intere. Sì, non dirlo a me, sono peggio di te, già lo sai. Quando mi metto, se no se la piglia il culo ormai non mangio più grandi, cioè sono sfinito per fare queste cose qua, non le faccio più ormai, basta, non mi interessa più, capito, non le vale neanche più la pena a un certo punto. Vabbè, già quando ho tempo mi diverto, in questo periodo sono un po' incasinato, perché se tutto va bene dovrò fare delle cose, quindi avrò poco tempo per dedicare a me e a tutti. Adesso che ho fatto un lavoro grosso, un amico da poco, quindi arriverò di strutture, carrelli, movimenti, tutto quanto, che c'erano quasi 10 giorni di lavoro pieni, basta, adesso qui c'è troppo caldo. C'è un tubo di là, tutto un po'. Tutte quelle antenne, guarda, ce l'avevi pensato io qua sopra, e giù mi avevo buttato fuori di casa mia madre, se fosse stata viva. Sì, io adesso se faccio il piano a casa sollevo ancora di più quella roba. Mamma mia, a te ti vedrai, vedrai che ti vedo la giornata, lo dico io. C'è un punto, guarda, che è molto meglio di Walter, la verità. A volte che lo mangi, come quando vuoi, se vuoi fare le gare, il discorso è quello. Perché c'è un punto veramente buono. Se tu sollevi gli altri 5-6 metri, e cosa del genere, tu ti mangi a Walter, ti mangi. Per la questione c'è, più che altro per Cagliari, la zona di... non di Oristano neanche, perché Oristano non c'è da niente, vabbè, comunque sia, Alghero e dopo Alghero, c'è il punto proprio debole, è quello, quindi c'è un segnalone di uso già lì. No, in VHF in linea massima vado molto meglio, Cagliari arrivo in diretta, non ho problemi in VHF collego quasi parte dell'Italia, la collego tutto l'anno, mentre Walter dalla parte di Roma lui è molto aperto, lì è incredibile, poi non ascolta per niente Cagliari, Alghero, tutta quella sbaglia, Cagliari, tutta la parte della Spagna, quella zona lì, io la collego benissimo, 9.30, 9.40, lui non sente niente, dipende dalla zona. Poi HF ovviamente fa la differenza, le antenne, l'altezza che hai, cosa c'è sotto, tutta una serie di cose, non è così semplice, però la posizione qua è buona, no, dovrei fare il piano casa. E quindi su devo smontare tutto l'impianto nuovamente, devo costruire un piano sopra e poi devo rimontare tutto l'ambaradam, lo rimonterò sopra, ci sarà un sacco di lavoro da fare, quindi una volta che inizierò il piano casa avrò poco tempo da dedicare alla radio, a tutto per un bel po' di tempo. E poi dovrò spostare la stazione radio, perché la sposto in una stanza dedicata, se Dio vuole che mi danno blu che benedetto autorizzazione, da questo buco dove sono adesso sposto tutte queste apparecchiature, che ci vorrebbe una stanza 4x4, non ti basta per mettere tutto quello che c'è accattastato, quindi faccio una parte laboratorio, una parte proprio della stazione radio, comprerò qualche altra apparecchiatura, tipo misuratori di nuovi che ci sono, di tutto per strumenti proprio che sono quasi al laboratorio, ma da collegare in antenne, una cosa del genere, controller nuovo per le antenne esterne, invece al computer, un po' di roba, dai, dovrò rifare tutto quanto. Quindi avrò tempo da dedicare per queste cose, oltre decine e decine di migliaia di euro da buttarci sopra. Guarda, io non consiglio, se avessi avuto i soldi adesso, in questo momento per dire, e ti avessi preso un bel appartamento di fronte, cosa ti posso dire, via, come cazzo si chiama, Zidu, dove abitavo io, con la palazzina che è alta, avessi installato lì la stazione, ti sto dicendo che tu avessi fatto 13, te lo dico io, senza neanche avere neanche, come ti posso dire, neanche 3-4 metri di palo, perché avessi fatto 13, te lo dico io. È l'unico punto che è micidiale, sì, quelli di tutta la Sardegna, il Brasile, quello che è, senza avere nessun problema. No, ma lei ha chiesto un'altra cosa, dipende, non c'entra niente, l'altezza è relativamente la posizione, ma poi c'entra, le antenne devono risuonare dal suolo almeno l'ideale serve un mezzo onda, un quarto, quindi c'è con tante cose, dai, non è così, e quindi niente, vabbè, io vado bene, non ho niente da recriminare, devo solamente, io faccio un'antenna dinamica dove apro e chiudo in base alla frequenza dove devo andare, quindi una full test su tutte le bande, dai 40 faccio sino ai 6 metri. Faccio con le antenne VHF, sempre antenne performanti che cambiano la polarizzazione con dei motori, quindi riesco a girarle per fare in polarizzazione verticale o orizzontale, dipende dal tipo di traffico che devo fare, quindi ho le 40 sino alle VHF non ho problemi. Allora, dovessi procedermi qualcosa di carino se faccio questo, per gli 80, e sugli 80 purtroppo ho un po' di problemi, ci vuole spazio, per il resto va bene, non... vediamo, adesso vediamo, dai. Facciamo questo piano cazzo. Lo sto dicendo, quelle palazzine che sono angolo del sito, quelle alte che vediamo Monte Grappa per dire, quindi di fronte alle scuole, quelle andavano veramente bene, sono 8 piani, ti piace un bel traliccio lì, anche piccolino lì, per dire, da 4-5 metri, non ti più, ti basterebbe, basta, avanza, lì ti basta, colleghi, tutto quello che ti pare ti piace da lì, a me, sai come mi massacrava a casa, quello che abitava di fronte a me, e arrivato. Tutti i giorni lui parlava con il Brasile, io invece no. Io devo usare 100 watt per poter parlare con la Spagna, invece lui, tranquillo, con 5 watt parlava in diretta. Quello che mi dava fastidio, beh. Figurati tu. Vabbè, sono il periodo di spostarsi. Beh, oh Popo, ti lascio per vedermi il telegiornale che sta per iniziare, va. D'accordo, sì. Buon telegiornale allora, a domani. Oh, stasera, buono, come vuoi tu. E ciao a tutti quelli che ascoltano, ciao. Ciao.